Ciao, ciao a tutti, a tutte, tutta la popolazione che questa mattina ha partecipato a questa resistenza incredibile, si sta dirigendo sulla Ramati, il sentiero che porta a Exil. Siamo quindi in mezzo ai boschi e con tanta pazienza, togliendo pezzo per pezzo anche le barricate che nei giorni scorsi avevamo costruito anche su questo sentiero, ci stiamo appunto addentrando sempre più nella montagna e nei boschi per raggiungere il primo paese vicino. Intanto al presidio abbiamo visto dall'alto completamente pieno dei mezzi e dei blindati delle forze dell'ordine, sono rimasti, da quello che ho capito, alcuni amministratori della Val Susa e il pool degli avvocati. Hanno continuato per molto tempo a lanciare ancora un sacco di lacrimogeni in mezzo ai boschi, rendendoci veramente la vita impossibile, anche perché qui il sentiero è molto stretto, pieno di pietre, ripido, scosceso, quindi insomma può essere anche pericoloso per qualcuno che potrebbe cadere. Invece hanno continuato a lanciarci gas sul fondo di questo corteo. Continua a sorvolare le nostre teste il solito elicottero che ci fa compagnia da questa mattina. Intanto mi è arrivata notizia che in diverse città italiane, penso ne avrete conferma, in giornata si organizzeranno mobilitazioni in solidarietà alla lotta Notav. Ho sentito Onda Rossa, Onda d'Urto, insomma nelle loro città si stavano organizzando delle cose. So che anche molte persone da Torino stanno salendo in valle, perché è vero, anche se insomma il presidio, per quello che lo conoscevamo, non esiste più, comunque ci sono tanti modi per continuare la lotta, si possono insomma bloccare le strade, costruire presidi nel resto della Val di Susa per fare pressione sulle forze dell'ordine. Quindi insomma l'invito comunque per tutti quelli che possono è quello di salire unirsi ai blocchi che si stanno già di fatto svolgendo lungo la valle. Sì, in più località, Sant'Ambrogio e Bussoleno, si stanno organizzando questi blocchi, c'è bisogno ovviamente di gente, piano piano speriamo e siamo convinti che ne arriverà sempre di più. Tu pensi che sia in qualche maniera possibile salire più o meno fino a Chiomonte? O cercare di ricongiungersi con voi? Sapete se a Chiomonte si riesce ancora a salire o no? Sono raccomandati che Pare di no, però a Chiomonte dalla statale. La statale dovrebbe essere aperta. Stanno bloccando quelli, se si fa riconoscere. Chiomonte è bloccato dove? Ok, a Chiomonte è bloccato all'altezza del bar, quindi comunque a Chiomonte si può arrivare. E poi ovviamente è un po' difficile perché c'è una lunghissima coda di tir, mi dicono, perché appunto i valsusini che non sono qui con noi stanno bloccando le statali e quindi insomma è un po' difficoltoso, però rinnoviamo insomma l'invito a salire, la giornata è ancora lunga, noi raggiungeremo il SIL da questo sentiero e insomma tenteremo di riorganizzarci per continuare con altre iniziative. Quindi la meta, diciamo, condivisa in questo momento è Exil, lontano appunto dai gas benefici e lontani dagli sbirri in caccia. Per quanto riguarda noi sì, perché appunto è l'unica via che avevamo a disposizione per ripiegare, un lungo sentiero sulla montagna, tutte le altre strade insomma che abbiamo presidiato in questi giorni sono tutte state prese dalla polizia.